Friuli nel mondo, 255esima trasmissione dedicata agli emigrati. Scrittori della nostra terra, Giovanni Del Puppo. Il nome del professor Del Puppo richiamerà alla memoria di molti tempi ormai lontani, allorché sui banchi di scuola dell'Istituto Tecnico Zanon o del Ginnasio Liceo Stellini seguivano ammirati le interessanti lezioni di questo dotto eclettico insegnante. Artista nell'animo, trattò anche la pittura, ma l'opera che più lega il suo nome alla città di Udine è senza dubbio quella imponente prestata per la formazione organica dei civici musei. Fu lui a caldeggiare ed a curare la sistemazione delle gallerie d'arte nelle capaci sale del castello, trasferendole da quelle troppo anguste del Palazzo Bartolini, attuale sede della biblioteca comunale. Il trasferimento avvenne nel 1906 e al professor Del Puppo ne venne affidata la direzione, che conservò a titolo gratuito per oltre 30 anni. Conferenziere piacevole e ricercato, fu anche scrittore e poeta. Noi friulani, che sappiamo aderire ai nuovi tempi e serbare insieme in un cantuccio del cuore qualche frammento di tradizione lontana e misteriosa, possiamo sentirci esilarati dalla bonaria e sana comicità del suo Se fusti in paradis, degli Udizi universali e degli Sanimis dal Purgatori, i tre componimenti che gli amava scherzosamente chiamare la mia Divina Commedia, e rivivere un poco con lui così nel passato. Di questo faceto scrittore ascoltate i versi scritti quando non esisteva ancora il tram di Tricesimo, pur lui scomparso e sostituito con gli autobus. Non occorre dire che lo scherzo poetico non va contro gli ordini cavallereschi, bensì contro la vanità di coloro che smaniavano per avere una croce di cavaliere. Unsium. Eri stata tresesim parafars, o lei a pit, par sparagnal vapor, e o tornavi in daur, gian gian, dopo gustat, par nostracami e imbatimi tal scur. Ma sei cagliere istat, sei che isgrez anvevi in vutavonde, o sei parche gotute di ramandul bevude a scotedetta al vignivie par saludai amis, sturni dalis cialis e svarbà dal soreli e dal pulvin, arrivata a mie gestrade, vuoi polsan freginin, mi disei, e ualmat un bielarbul frindò sull'or di un prat, mi distirai te un brene, jenfri la frind, gioldindi che verdure, e ci si cavi in uceluz, vignuz anche lor a parasi de chialdure. Eri pognetta pene, che il sciumel mi chiapà. C'è tant covei dormit, lo sai, da bon, ma o mi visi benon quai fatta che dormide un sium curios, che alla cirilo a queste non si luburis fur nanche veglan. Un sium cal mia fazza varia. Un sium, insomma, cusi fur dal vada che non pues fa di mancul di contà. Mi insumiai dunque che il guviar, par no sai c'è miei meriti straordinaris, al mi veve mandà, bolat, sintint, firmate, vidimat, un magnific diplome, cal mi creave, cencetà in preambui, cavalier di corone. Appena che gli amici lo han savut, in botte si son dazi li smansator, per poter farmi onor, sei con tanta di quagni la novità, sei pensant a fasune colette per comprami la cross. Là de in zir che ste vos, d'ogni bande, Zanetto, mi consoli, l'onor le meretat, o mi sentivi di, patron, signor cavalier, cavalier benedetto, e cavalier di qua e cavalier di là, io co soi educat rispondevi con sest e o ringraziavi fasin fente di nie, però par dentri vie po mi pare di sei invitato a cene, una cene cui flox al nazional si mangia, si beve, si chiacarà, ma rivazza al vin blanc iu brindise discorse e compliments. Po il più anzian de compagnie con dute serietà al mi vendoglie e al mi ponte sul pet la memate crosone. Figurai si le fiet che in quel e dove fa la me persone. Tra un tibidoidis matimans, die vivas, io mi eva in pis, e con un biel discors, o ringraziai gli amis. Oh, ie si cusi onorat, ie dute lor bontat, non meretavi tant, e cusi vien denant. Ma, chiolinti il caffè, cusi, cence pare, fasinti il gnonio, par no fami squaià, di tant in tant, o levi via palpand la me brave crosute. Oh, c'è gusto, a sinti sglizia sotto i dez, il slis de cros, il musulì dal floc. N'avevi mai provato in vite me una gionde compagne. Ma mi dismo finché ovevi un sbit di uccell d'uz maltiat cui dez sulla pistagne. Ed ora tranquillizzatevi, con la sua ingenua ma eccezionale fantasia, il caro del Puppo vi assicura, amici emigrati, che anche all'aldilà potrete trovare i piatti e i vini della nostra inimitabile cucina friulana. Sentite, infatti, alcuni squarci di Zefut in Paradis. Zefut, vecchio ortolan di chiase aldine, rivat sot l'ottantine plendischinelis, gobo, stresini, al pensa ben di lanche lui cun Dio, o, come che si dis, di tiralpi. Lui chiatare in taglietto une mattine che non tirava il flat, e gli era già oramai quasi glazzato. Clamarmi il dottor, che tocchi al pol salum, luppa il pugnà, e persuadut che gli era proprio muart, istinde su doi pis il passe puart. Agli era quasi scurco lu portare in sot, con tune torze il muini il edaur, con l'intenzione di noppiarvi il spergot. Il capellan de Vilepo, se dit con tutto rispetto, il murmugnà su imprese la diesile, poi udal cadrilet bruttuntuntun finte buse, dos palades di tiare e buine gnot. Omo, rivat cal fot al mon di là, se fu, c'è mud non sa ven anche lui, tutti in tumbot, pardiane, al sicchiatà denan de puarte d'auro dal paradis. San Pieri, cal cucave furpe spie, non lo ven anche olmat, che i verze in botte. Oh, se fu, benvignut, tutta la smeretà, vecca, vecca! E lo fasei entrà. Nous dis la marivè dal puar zefut. Al chialator, resta lì in su sit, non potevi arzi il bec. L'eringusit. Gio, tindini sui balcons, tapez partiare, poltronis di vilut parcai parlà, ogni tanto un sofà, taulins, armars, scansis di lustri fin, e sotto i tras picchiadis, tre bielis clocis dutis indoradis. Talmietz, un taulone parecchiade, mantil di Flandre, tavaius di Lin, pladinis, plats, terrinis di Crepfin, sedons, pirons, curtis dut quandarin, supes credinsis, robis che nous dis, par fale curte insume il paradis. Gli odinti il puar se fut dat fur di square, San Pieri, da quel bon vecchiut calè, lu tirà pe gabane. Oi là, copari, saldi in gamba, che sta l'immonie. Po al daune vos. E tanche dos tigilis, ecco doi agnui con Paris volant. Urci mie, po a se fut, va là con lor. Lor lui chiappi in sot braz, e in tun lampin, psst, lu traspuarting in tun camarin. Lì, lu viesting da nuf de chiaffa pis. Chiamese ricamade, mude di pano fin, scarpis cui flox di sede, chiappiel di moscardin. Vistut così imparade, il puar se fut non steve più te piel. Se non è proprio tinchel, ecco su nemis di. Zefut, non si fa se frea la panse. Al si tirà da uru ne poltrone, al si sintà con bon pitit in taule, e i petadentri allegri di sonone. Ca, ores dau su ne idee dei passi del paradis, ma di pore che usvegni laghi in bocie, o lassi che zuiais di fantasie. Baste cos'è pischest, che lassù non si bada economie, che si mangia duce cale plui bon. E che si viota ogni dì a porta in taule fin la torte e il budin col zabaion. Oh, polente, pan di sorg, par sempre a Dio, riquars di fan, di strusis, di miserie, cumo tortis, budins, golaz, gubanis, polez, chiapons, dindie, vidiel, salvadi, musetcula bruade, brusadulutis, frituris e minestris di crode calceitocchio. Aghe, malafissi, rafos, verduz, ribuele, piccolita plesbocai e pan blanc a tutti i past. Ah, i pagnutins con le sponge, pitinins, musuliz, liserins, che si disfing in bocche e sbrissing in tumbot anche il sorbet. Una dieta così sostanziose non poteva manchiare di falso e fiet. E il bon zefut, in pochi settemanis, alti diventa grasta anche un culet e, par contau sedute, al mette su anche un fregol di pansute. Ma le disting che l'om non sedi mai content, nanche par dindidine in paradis. Dopo tre mesi di gionde di baldorie, Zefut al si buttà in malinconie. Una domenica, dopo di gustar, alleve spasisant in musonat, dan dan dan dan dan dan dan dan, su e giù pal paradis, col chiapied sulla cope, gli smangs da ur de schene, sbrundulant gien fridinti, e l'aiù di fug, pardie, noi e miserie, o di ruffo di raff, o podrà in algobu rifuru ne calderie. Basta, coraggio, Josef, e dite fatto al comè del chiapiel, al simbotone la blanchetta, al si spacca giù il pulvin de scarpis, lavorando i fazzolet, por svelt come un ciupet tutto imburit, al cor la calsteve il signor. Domandat con permesso, al si presente, su dice nos, copodes nome crodi, al tire giù il chiapiel, e al fas la riverenze, come di viv denand l'altar maior. Oh, se fu, c'è buon vint, disse il signor, e se fu, trabastiant, così al scomenze. Signor, soi ca par faus une preiere. Paul si intoppe. Il signor par fai coraggio. Fevele pur, se fu. E Zef, come calvesse un grop sul stomi, al dat fu tutto un flat. Mandaimi un siet voddista al precatori. Po, diventi stumat? Ah, no la fe, signor, codis da bon. Cence di nie, il signor luciale par traviars. Al si spiccio un mostaz, al fas il cei. Po, vignuti in suspiet, che quel babbio di Santa le Sampieri gli avei fat qualche imbroi per simpatie calveve par se fut, al da un esglinghignade al campanel. Si viarzi un ettindine e al comparis in botte San Michele, vistut come il suo solito, di guerir, con la belance e con la spada in man. Comandaimi, signor. Da un occhiade sul libri e viot se mai, e mostre il puer se fut tut spaurit, caltrimave tanto un venc. San Michele, ubbidient, da buon soldat, al poi spade belance in tun chianton e al spalanche il libron. Al bagno il det, e volte, e volte, e volte, fin ch'arrive la chiarte di Sefut. Blanche, blanche dal dut. Allora pol signor invelegnat, non può de plui tignisi. Ce n'hai sono castis, ce ti manchi al casù, ce ti comenti al... Su fevele, sintin! E al fo su lor, che noi sbrisas un corpo anche al signor. Se fut, quanto al sinti che il verbo un caro, al ti diventa blanc anche un peciot. Al sdargia i braz, al fase il blec, poi imprese, con la voce che i veive tal gargat. Signor, mio bon signor, voi avete reson di vendi, ca non mi manchi nie, causo in nudri, vistut, pontate, smondeat, causo i trattat di sior, ca vuoi pin anche quel che mi covente, non podaresta mior, ma per l'amor di Dio. E cal si butta in genoglont un sclop. Perdonaimi, signor, ma un furlan, non postace in cepolente. Il signor, sempre bon, a che Jesude, a si sclaris di cere, si chiarezze la barbe, a riduce sot cos. Poi gli fa segno col det a San Michele di Laidoglie e sod vos i dis dus lo spera un utis tu neurele e Michele a riduce in tant calscolte. Non sai ce che hai vedi, ma il fatta l'è che dopo di che volte in paradis si mangia anche polente. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.